Maurizio Lunghi, segretario generale della Camera del Lavoro di Bologna, oggi è l'anfitrione, ospita un vero insieme di forze che propongono il cammino delle idee per la festa della Resistenza. Sì, noi abbiamo praticamente già da anni, lavoriamo insieme con AMPI, Libera, Emergency e l'ARCI e ogni anno noi mettiamo in campo una festa con vari argomenti da affrontare. Quest'anno abbiamo pensato di riprendere il tema della resistenza, cogliendo anche l'ospitalità dei compagni e dei volontari dell'AMPI di Marzabotto, che è un punto simbolo, un territorio simbolo per quanto riguarda la nostra area metropolitana, e quindi abbiamo pensato di utilizzare, diciamo, questa loro iniziativa per riprendere i temi che mettono al centro i valori della resistenza con la Carta Costituzionale, ma anche con la Carta dei diritti della CGIL, e quindi provare di fare un ragionamento su quello che può essere lo sviluppo della società futura, dei temi del lavoro, di dove andrà, diciamo, a collocarsi il tema dell'occupazione, la tolleranza, la solidarietà. Metteremo insieme, diciamo, ragionamenti che riguardano anche la legalità con Libera, quindi anche le terre confiscate, le esperienze che si stanno facendo. Si affronteranno gli aspetti che riguardano ovviamente anche la tenuta democratica del paese, a fronte anche di questo rigurgito di forze di destra che si stanno presentando a vario titolo, e soprattutto bisognerà costruire anche un ragionamento importante sui temi dell'immigrazione e quindi sui temi della solidarietà e della tolleranza, perché noi dobbiamo entrare nell'ottica di idea che queste persone che arrivano per trovare, diciamo così, un luogo di salvataggio per i loro rischi di carattere personale possono essere, diciamo così, una potenzialità positiva e non visti come un fardello o una zavorra.